Italia in controluce. Buongiorno a tutti, Berlusconi tra processi e governo, dunque la condanna a 4 anni per frode fiscale di Silvio Berlusconi nel processo Mediaset, i relativi 5 anni di interdizione dai pubblici uffici pongono certamente 2 seri problemi al paese. Da una parte la tenuta del governo a guida Enrico Letta sostenuto dal Popolo e Libertà e il connubio tra giustizia e politica che rimane ancora irrisolto. Del resto la situazione processuale di Berlusconi è sempre più grave perché a giorni ci sarà la richiesta di condanna da parte dei pubblici ministeri di Milano per il processo Ruby e il rischio all'interdizione in pubblici uffici sarà sempre più forte. Vi chiediamo al 349-238-6666 se c'è stato secondo voi un accanimento giudiziario in questi anni su Berlusconi oppure il Cavaliere è colpevole dei fatti a lui attribuiti. Ancora, se ha ragione poi il Popolo e Libertà che annuncia una manifestazione a Brescia sabato a protestare contro la magistratura. Questi sono i titoli di oggi. 349-238-6666. Mi collego subito con Raffaella Calandra che ha seguito il processo di ieri e anche con Vincenzo Miglietta per le reazioni politiche. Raffaella. Sì, Daniele, buongiorno. Buongiorno a te. Dimmi. Beh, diciamo che il problema su cui si basa il racconto di oggi è la domanda sull'interdizione, se esatto. Il rischio è sempre più forte a nostro avviso. Allora, è evidente che in questo momento è quello che preoccupa di più Berlusconi, perché al di là della pena, i 4 anni che con l'indulto diventano 1, è questa è la fase, l'esecuzione di questa pena accessoria, cioè i 5 anni di interdizione dai pubblici uffici che lo preoccupano. In ogni caso bisogna aspettare la Cassazione, che più o meno potrebbe mettere in calendario il processo Mediaset nel giro di 6 o 7 mesi, quindi si parla del prossimo autunno, il verdetto della Cassazione. Ma se la Cassazione dovesse confermare la condanna, che a quel punto diventa definitiva per frode fiscale per Silvio Berlusconi, a quel punto la palla passa alla Giunta per le autorizzazioni della sua Camera di appartenenza, ossia di Palazzo Madama. Sarà la Giunta a quel punto a dover ratificare la decadenza dallo scranno di senatore di Berlusconi, una decadenza in qualche modo rafforzata, diciamo così, resa ancora più possibile grazie alla legge, una delle ultime leggi varata dal governo Monti, che nell'autunno scorso ha rafforzato i termini dell'incandidabilità degli eletti e anche della decadenza dei parlamentari nel caso riportassero delle condanne definitive superiori a 2 anni. C'è questo, diciamo, scoglio importante da aspettare per capire le ricadute politiche che una condanna definitiva eventuale per Berlusconi potrebbe avere sulla tenuta del governo, ma c'è un altro appuntamento importante che guarda con interesse la difesa di Berlusconi, che è quello della consulta. La Corte Costituzionale a giugno dovrà pronunciarsi sul legittimo impedimento o meglio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato che è stato sollevato da Palazzo Chigi nel 2010, quando appunto premier era Silvio Berlusconi e quando in una udienza del processo Mediaset, esattamente quella del 1 marzo 2010, non gli è stato riconosciuto un legittimo impedimento per un Consiglio dei Ministri deciso all'ultimo momento e quindi che si sovrapponeva ad una udienza che invece era stata già fissata da prima. Questo è importante perché la decisione della consulta apre degli scenari che a questo punto non siamo ancora perfettamente in grado di capire fin dove potranno portare. Che vuol dire se la consulta dovesse dar ragione a Berlusconi? Che cosa annulla? Annulla quell'udienza oppure si apre uno scenario addirittura più alti, nel senso che potrebbe annullare addirittura la sentenza? Dovrebbe essere eventualmente la Cassazione a sua volta a stabilire l'impatto di questa pronuncia, come ieri anche già i giudici d'appello Mediaset hanno detto quando hanno respinto la richiesta della difesa di Berlusconi di interrompere il processo in attesa appunto della consulta. Bene, allora attendiamo dunque la consulta. Grazie Raffaella, intanto sono arrivati tantissimi sms vostri al 349-238-6666. dice, ecco, ce n'è una di Massimo Mallegni che dice: sono l'ex sindaco del PDL di Pietrasanta, la posizione del mio partito sulla giustizia è sbagliata, ma ha radici profonde, andrebbe approfondita. Se fosse innocente, dice Anna, perché fare legge ad persona? Dovrebbe farsi da parte per il bene del paese. Certo che per il PD questa alleanza puzza sempre di più, comunque manifestare contro i magistrati è pura demagogia. Nessuna domanda, dice un altro ascoltatore, è tutta lì nei suoi reati. Nessun accanimento se un evasore, se c'è un evasore, non è colpa dei giudici, dice Corrado da Como, da moltissime sms che dicono di stare con, dalla parte di Silvio Berlusconi. A Giuliano Compagno, e aggiunge non pseudonimo, basta con questa scemenza dell'accanimento giudiziario. Berlusconi è il simbolo dell'impunità che solo i potenti possono permettersi. Un altro ascoltatore: la magistratura è politicizzata e ideologizzata quanto lei, cioè io, Antonio da Pescara. Non è un accanimento giudiziario, finora ora solo scantonato, doveroso pensionarlo, dice Luigi Brunello. 349-238-6666, la cosa che posso dire è che leggendo i vostri sms, diciamo la fotografia di un'Italia che dal 1994 ad oggi, stiamo parlando veramente di molti anni, non è diciamo per niente cambiata. C'è ancora un'Italia divisa in due, in cui c'è tutte le persone che non la pensano come Berlusconi, sono comunisti, e da una parte, e dall'altra c'è una forte, diciamo, ideologia anche contro Berlusconi. Non c'è in mezzo una posizione tranquilla, una posizione veramente soft, una posizione politica riformista seria in questo paese. Sono passati oltre 20 anni e questo rattrista veramente tutte le persone che, a cui diciamo a tutte le persone come me che amano invece il senso alto della politica. Vincenzo Miglietta, il PDL è sulle barricate. Assolutamente così, anche se in queste ore mi sembra di individuare delle reazioni e dei commenti su un doppio binario: da una parte le barricate e quindi la manifestazione di sabato a Brescia, dai giudici di Milano spiegano dal PDL è venuta l'ennesima conferma che la mobilitazione contro l'uso politico e personalizzato della giustizia non solo è legittima ma è necessaria; dall'altra, Daniele, invece gli uomini quantomeno delle istituzioni e di governo del PDL, quindi Brunetta, capogruppo qui alla Camera, ma anche il ministro Lupi, si affrettano a dire che la manifestazione non avrà conseguenze sul governo e che quindi è necessario distinguere nettamente le due realtà. Quindi da una parte PDL sulle barricate, sabato a Brescia probabilmente rivedremo quanto abbiamo visto settimane fa davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. Ricordiamo che anche questa mattina dalla Procura di Napoli è arrivato un ennesimo rinvio a giudizio di Berlusconi anche per la vicenda della presunta compravendita dei senatori. Dall'altra parte però molta cautela, abbiamo ascoltato anche poco fa l'onorevole Osvaldo Napoli, ex vicepresidente della Camera, che ci ha detto sì, però questi fatti non avranno effetti sul governo, un governo che deve andare avanti, di difficile composizione, ma la giustizia è un caso a parte. Altra domanda che abbiamo fatto ai vari rappresentanti del PDL: qualora dovesse arrivare la famosa interdizione, cosa farà Berlusconi? Tutti hanno detto Berlusconi non lascerà la politica e comunque confermerà la sua presenza, perché lui è l'anima del PDL, è l'anima del centrodestra italiano. Bene, grazie mille a Vincenzo Miglietta e Raffaella Calanda che erano collegati oggi. Il tema, come dicevo, divide naturalmente i nostri ascoltatori. 349-238-6666, vi abbiamo chiesto se secondo voi c'è stato un accanimento giudiziario, in molti hanno detto di sì, in altri assolutamente no, e confermano ancora un paese diviso. Del resto non c'era un altro, per esempio ci ricorda il vero scandalo del Monte dei Paschi di Siena, ha ragione, noi ne abbiamo parlato e ne parleremo naturalmente nel futuro. E questo però dà l'idea di un paese fortemente diviso. Da Margherita che dice: certo che c'è accanimento giudiziario contro Berlusconi e dire un altro come Merida Montemagno, provincia di Asti, per me la galera per il cavaliere e ora basta mantenere lui e i suoi avvocati. Questi due sms danno veramente l'idea di in quale situazione siamo. Grazie ancora. Facebook, pagina gruppo e ricordo Twitter. Daniele Biacchesi vi saluta, domani.